miseria, se me lo fa di pesare, cambie. A parroce lo dai, nome di battesimo Saverio, stazione Anima Luga. Animaccio a Luga, cambio. Domenica avanti la Cina 3-3. Ma si canta solo? Si canta, si balla, non è così, così. Suona, no? Solo? Se tu sei fortino non canti e balli solo, se vai lì per rimorchiare, magari rimorchi anche, cosa vuol dire? Devo rimorchiare, non la giuro, non faccio la coprenista. Sì, sì, sì, ti piace fare il galletto però. Hamburguese.